A scuola andavi sotto scuola per farmi paranoia con paranoia, penso voglia non farmi, sì, la tua tipa vuole farmi, sì, sono concentrato sul farli, per distrarmi trovo modi per farmi, sto fumando tutta una fattoria come a farmi, mio fratello è un dottore, ti prescrive quei farmaci, vuoi fermarci? Calmati e ripensaci, fotti la dark gang, 777, dopo te ne penti, in strada da quando avevi l'apparecchio sui denti, tossici, un barre di rame dentro ai carrelli, parlano di barre, sono il nuovo Machiavelli, muovendo piccioni, lei su Instagram muove uccelli, sposi una troia, pensi a quando sarete vecchi, sto pensando a diventare ricco coi miei fratelli. Sto facendo buste con pagine di riviste. Sto facendo buste con pagine di riviste. Sto facendo buste con pagine di riviste. E le grazie a chi su codi senza repliste. I miei amici nati spacciati, impicciati, nati per spacciare, collezionano droga, scambi sotto scuola. Vuoi Francesco Totti? Non la passo, ti lascio due botti. Sto in strada da quando il motorino aveva due tempi. Mamma ti diceva di andare piano coi tempi. Quadri appesi a casa dietro i soldi nascosti. Triplo 7 la gang, sentiti la fronte scotti. Spezzi di riviste su codi, il sensore blister.